Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Benvenuti a tutti quanti, questo è di nuovo Medium. Siamo oggi con un ospite di cui si è parlato molto in quest'ultimo periodo in virtù del fatto che ha vinto il nazionale di Netrunner Italia. Ciao Luca. Ciao a tutti. Sì, se ne è parlato anche fin troppo in un certo senso. Ma non è vero, dai, non ti abbiamo celebrato così tanto, via. Soltanto vinto un torneo, niente di più. Beh, in effetti, guarda, non è stato un torneo tanto differente da quello di Play Modena, con l'unica differenza che però ci sono stati, come dire, le finali. Quindi eravamo tutti quanti cotti come delle pere, però insomma è stato impegnativo. Tutti dicono, sì, un torneo che vuoi, fai 5, 6, 7 turni in Svizzera, fai 4, 7. Poi quando vengono lì si beccano 5 ore di gioco consecutivo. Sì, 13-14 partite, non sono banali. Anzi, già mi stupisco del fatto che ho tenuto un po' di lucidità durante la Svizzera. Niente, vuoi parlarci prima del torneo? C'è qualcosa che ci vuoi dire riguardo del torneo? Come ti sei trovato? Il meta? Un po' di cose le abbiamo già sentite dall'intervista che t'ho fatto mentre stavamo facendo il torneo. Però magari qualcosa che vuoi col senno di poi raccontare, insomma, mentre a bocce ferme, che cosa ricordi di questo torneo, che hai fatto bene o che cosa hai fatto male, o magari anche prima del torneo. Vai. Allora, fammi un po' pensare. Allora, prima di tutto sul meta, come avevo già detto, ho trovato quello che pensavo, ovvero Jinteki e NBN. Sul questo fatto naturalmente avevo lavorato dicendo, allora mi troverò HB e altre cose e molto Wayland. Non è stato così in realtà, cioè il meta è stato abbastanza prevedibile, almeno dal mio punto di vista, e quindi naturalmente parlo da quello che ho visto io degli ultimi tornei. Comunque consideriamo che in 5 turni in Svizzera non puoi assolutamente pensare di aver trovato interamente tutto il meta. Io ho giocato contro 5 giocatori, di cui 3 li ho trovati top 4. Poi, dopo. Certo, perché hai cominciato vincendo e poi dopo hai incontrato poi tutti loro. Esatto. Io invece ho cominciato pareggiando e quindi poi ho incontrato te solamente al terzo o quarto incontro, forse al quinto turno. L'ultimo incontro. Quindi cosa ho visto? Ho visto dei Jinteki, e comunque ho visto dei Jinteki che nonostante tutto funzionavano. Quindi non volevano ucciderti. Non volevano uccidermi, ti infastidivano e usavano attualmente le carte che sono uscite con Horror and Profit, che sono assolutamente godibili. Hai detto Horror and Profit, t'ho sentito. Horror and Profit è la mia pronuncia orribile che ho. Ma diciamo anche Horror and Profit, è molto bella come espansione. Come nome di espansione. Che altro? Allora, prima di tutto sono contento che ci dica sia competitivo. È la quarta fazione, sì, che non si vedeva. Direi con Replicating Perfection, però, piuttosto che con il core. Nel senso, con l'approccio stile Fast Advance, Nisei, Ash, quelle robe lì. Io sto provando a fare qualcosa che ti ammazzi di net damage. In realtà ti ammazza più di noia, forse, però siamo sulla buona strada. Sono contento che ci sia questa possibilità. Come già si presentava invece per tutte le altre fazioni, perché tutte e tre le fazioni abbiamo visto vincere NBN, l'abbiamo sempre comunque vista vincere, abbiamo visto vincere HB forse troppo l'anno scorso, sì, chi lo sa, era veramente inarrestabile, era di moda, ma poi funzionava bene, dovevi solo fare tutto giusto, e quindi abbiamo visto tuttora molto bene, cioè io... assolutamente. È solo che non sono tanto acclimatato con HB, sennò secondo me è il mazzo più forte. Io porto NBN perché lo conosco bene, insomma, però insomma HB secondo me è il mazzo da portare. Esatto. E poi vabbè, Wayland, l'abbiamo sempre visto, che sia che sia nella classica configurazione con lo Scorched, sia come l'ho portato io, sì, come si può vedere dalla lista che c'è sul dataport, sul sito, è un dataport assolutamente senza Scorched e che ha funzionato. No, ma infatti sono contento che abbia vinto quel, tu e quel mazzo, perché comunque vince il modo classico di fare Netrunner, cioè installo, avanzo l'agenda, ti do l'opportunità di entrare e poi dopo finisco l'avanzamento dell'agenda, che in un certo senso è, insomma, Netrunner per come era inteso all'inizio, cioè io faccio talmente tanti ice che proteggo che posso permettermi di farti vedere che sto avanzando un'agenda e tu non riesci comunque ad entrare, cioè io, insomma, io avanzo e mi proteggo, tu provi a fare le intrusioni. Sì, sì, infatti questa cosa qua, quando è apparso quelle agende, quel famoso progetto Vitruvio che dava la possibilità di creare effettivamente il FastAB Advance, cosa, ho appena incrociato le parole, vabbè, HB Fast Advance e insomma un po' messo in discussione il meta. In realtà, se siamo arrivati comunque a giocare un anno dopo questi mazzi qua, l'unica cosa che si può dire è che non si è cristallizzato su quelle soluzioni vincenti, perché in realtà ci sono anche le controsse, basta soltanto pensare al Kebab Baro, sì, quello che uno, cioè a Wizza. Ah no, pensavo che si doveva un Ataganes. No, no, caro Wizard, che noi quando abbiamo sbustato la prima volta dallo scatolino l'abbiamo chiamato subito, il Kebab Baro, cosa poteva fare all'inizio? E invece poi si è arrivato uno spacca economia, niente male. Ho provato diverse volte, non se ne è sentito comunque la necessità, perché, ripeto, siamo arrivati lì al play e... Sì, sì, ce n'era per HB, ogni... Io non li ho visti, sicuramente no, c'era da qualche parte, sì, ecco. Sì, sì, però non sono arrivati oltre un certo tot, quindi... Comunque sono contento, è stato un bel torneo. Giocate spettacolari che ti ricordi? A parte il mio Maker's Eye che ti ha tolto 6 punti agenda. Ecco, direi che abbiamo finito qua, questa è la cosa. È stato un piacere, arrivederci. In realtà di giocate spettacolari forse sono l'unico che le ho fatte io, non me ne sono state fatte. Alla fine di partite ho perso contro di te 2 volte. Esatto. Tanto poi dopo ti sei rifatto in finale, che me ne hai date una dietro l'altra. Mi sono rifatto più che altro perché la cosa bella del tampato, che io non avevo mai visto con questa cosa doppia eliminazione, sì, il fatto che incontrandoti e chi si incontra prima durante la Svizzera ha una possibilità in più, ovvero conosce il mazzo della persona, conosce quello che ha visto. Kate soffre, cioè il mio Kate soffre molto del fatto che lo conosci, perché sai che sei pieno di trick, sai che non usa un'economia stabile, quindi ha alti e bassi, mentre vabbè, se conosci il mio Fast Advance, bene, l'hai conosciuto. Esatto. Sì. Masticazzi, esatto, cioè lo conoscevi già. Sì, e quindi Kate, e questo è stato il bello, che comunque tu con Kate mi hai giocato una bellissima partita all'ultimo turno in Svizzera, che mi hai devastato il mazzo, mi sei entrato dove dovevi, infatti quella forse è stata la giocata migliore, e che però poi si è ritorta contro perché io sapevo cosa fare. Sì, sì, non mi hai giocato io style takeover perché sapevi che giocavo blackmail. Sì, te la sei giocata bene, io proprio insomma ho giocato malissimo, però perché ero veramente cotto, però insomma comunque tu hai giocato in maniera abbastanza impeccabile. Sì, no, comunque in realtà devo dire che il livello è stato alto. La cosa che mi ha fatto più piacere in realtà di quello che ho visto è stato come utilizzare l'uso di indexing, che molti non so se lo usano veramente nella stessa maniera con cui lo uso, perché faccio scout sul resto del mazzo. Ad esempio contro Matteo, terzo classificato Matteo, sì, me lo sono incontrato al quarto turno in Svizzera, io dopo 2 indexing sapevo cosa faceva il suo mazzo NBN, e sì, quindi quando sono andato a prendere le agende lui mi ha fatto un mid-season replacement, mi ha infilato 9 tag, e io però sapevo che non aveva in mano Scorched Art, perché Scorched Art gli avevo messo il turno dopo, al sì, turno dopo avevo già Plasket messo giù. Ok. Questo permette veramente, indexing è una carta che dà una lettura così grande del mazzo d'avversario. ci hanno tracciato, siamo sì. Tag, cioè ci siamo staggati. Esatto, stavi parlando appunto di tag, mid-season replacement, Lupus in Fabula. Esatto, comunque di, da lì dopo sapevo che lo scorso non ce l'aveva più avanti perché li avevo sistemato io, quindi ho poi procurato un classico veramente. Questo è per dire appunto, non so se l'ho già detto, ricordo, che lo Shaper ha diverse modalità di lettura che non ha per esempio il Criminal. Il Criminal che realizza, ma non può avere queste capacità di lettura, soprattutto sulla rendite, anche se non è la mano. Cito il Baralai, knowledge is power. Lui quando ti tira l'infiltration te lo dice sempre. Sì, va bene. Bene ricordarlo. Vogliamo passare a commentare Upstalk. Non dovrebbe essere tanto lungo questo commentario, perché comunque le carte, penso, adesso tu mi hai detto già che non hai letta una, quindi ma questo dobbiamo tenerlo per noi, no? Non si fanno queste cose. Vabbè, ma perché, scusa, cioè c'è l'effetto wow, io magari l'ho già vista e tu dici ah no, questa mi piace, questa non mi piace, vediamo la reazione a freddo di come reagisce alle carte di Upstalk. Ce ne sono alcune che secondo me ti faranno fare un po' di wow. Allora dai, partiamo velocemente con la Corp e guardiamo le prime due di HB. La prima è un'agenda, Domestic Sleepers. È una 2-0, quindi si scora in un turno e ti dà 0 punti agenda. E già qui cominci a dire, ok, che altro c'è? Spendi 3 click e posizioni un counter agenda, che ci è stato gentilmente fornito dal paddo durante il nazionale. Cosa servivano? Esatto, cioè loro quanto sono avanti, sapevano già che avremmo giocato Domestic Sleepers e quindi ci davano qui con counterini agenda merdosi. Va bene, fai 3 click, quindi fondamentalmente, a meno che non hai situazioni strane, perdi il turno e posizioni un punto agenda su Domestic Sleeper. E Domestic Sleeper vale un punto agenda se ha almeno un counter agenda su di esso. Chiaramente quindi ce ne puoi mettere quanti vuoi, perché se vuoi fare lo sborone perdi più turni mettendocene tanti, però comunque vale un punto agenda. Sì, infatti. Cosa ne pensi? È una carta interessante, c'è un solo piccolo problema: se viene rubata dal runner non vale nulla. E questa è una buona cosa. Beh, però occupa uno slot e non dà requirement di agenda point per fare il mazzo. E quindi sono slot occupati. La carta che sì, va considerata la stregua di una carta, di una carta con un effetto, non va considerata esatto. Esatto, non è male, non è male, è bilanciata via. Sì. Cioè non rischi nulla, però però insomma sono 3 slot che devi dedicare. Esatto, quindi non metto nessun wow per adesso. Per ora diciamo... no, bisogna vederla giocare. Esatto. Un ok. Oh, questo invece lo aspettavamo, Next Silver. Avevamo visto il Next Bronze, adesso vediamo il Silver, che al contrario del Bronze, che è un, se non mi ricordo male, un Code Gate, questo è un barrier. E quindi costa 3 da rezzare, 1 di forza, 2 di influenza e ottiene un end run per ogni next rezzato, quindi lui conta come un next, quindi di base da solo ha un end run. Già non è malissimo, cioè insomma ho visto di meglio, però a costo 3 c'è Wall of Static che ha 2 di forza in più, insomma non è banale, però insomma è un potere interessante. È interessante contro Knight perché ha più Sabrutin, però ha quell'1 di forza che insomma è un parassita. Cioè... Oh, tutti con sto parassita, ma io non è che non li vedo tantissimi di sti mazzi, mille parassiti, cioè nel senso... Io li vedo. Non lo so, nel senso che ok, tutte le volte che diciamo però con un parassita va via, a questo punto cominciamo a dire ok, ma quanti ice posso mettere che dovranno essere uccisi da parassita, quindi insomma. Oh certo, però questo vuol dire che per esempio se io riesco a distruggere più ice next, sì, sto distruggendo un po' la forza di un mazzo, ecco. Quindi sì, se mi trovo un matchup negativo contro chi gioca Parassita, magari ce l'ha. Ed è per questo che giocherai l'identità scrausa di HB, che è quella che ti dà il più uno agli Ice. Naturalmente. Purtroppo sono bioroidi, quindi non funzionano questi Nex. Cioè, solo i bioroidi, che merda. Sì, vabbè. Aspettiamo ancora un altro ciclo, magari con la scatoletta ancora arriva qualcos'altro. Però insomma, almeno qualcosa. Tanto è sempre così, abbiamo delle carte che sono uscite con la prima scatolina che non è, che stanno lì, che aspettano di essere giocate. Esatto, e poi aspetta, ci fa una carta che li fa giocare, quindi bisogna solo avere pazienza. Pertanto, tanto le carte per giocare ce le abbiamo, no? Sì, in abbondanza. Senti, passiamo a Lotus Field. Allora, Codegate costa 5, quindi non economicissimo, però a forza 4, quindi una buona ratio, e un end run molto semplice, costa 1 di influenza. Il suo potere particolare è che la forza di questo Lotus Field non può essere abbassata, quindi Parasite, Data Sucker e Bishop non possono agire su di lui. Esatto, questo e nemmeno Wyrm. Questa è un po' la carta che quando l'hanno vista in questo upstall, che sono tutti strappati i capelli. È la fine di Yogg. E ci metto un Knight e vaffanculo. Esatto. Ci metterò un Knight. Però è veramente un hard counter contro un certo tipo di Anarch, o quelli che si usano le carte fighe degli Anarch. Vabbè, insomma, sono sempre solo tre Ice, non ne possiamo mettere. Innanzitutto ce li devi mettere, e quindi vuol dire che giochi contro Anarch in maniera, come dire, pensi che arrivi un meta fortemente Anarch. Però diciamocelo, influenza 1, end run. Sì, non è 4 di forza, non è male. È un code gate, ci sta. Potrebbe tranquillamente essere gli unici 3 code gate che metti nel mazzo, giusto per rompere le palle. Invece dell'enigma, Invece dell'enigma, del Quandary, sorpresone. Va bene. Mutate. Allora, con Mutate, che costa 2 ed è un operation Jinteki 3 di influenza, come costo addizionale per giocare queste operazioni trascia un ice rezzato, quindi deve essere rezzato. Rivela carte da ricerca e sviluppo finché non hai rivelato un ice, installa e rezza, quindi te lo rimette anche rezzato, quell'ice nella stessa posizione dell'ice che è stato trashato, ignorando tutti i costi. Quindi, nella migliore delle ipotesi, sacrifico un pop-up window e metto in gioco un archer. Esatto, diciamo best case scenario, però insomma, questa a me mi dice carta su cui far girare un intero mazzo, ma dopo però gira il mazzo. In realtà forse l'unico slot importante da metterci, e che oltretutto è utilissima sempre, secondo me, è proprio un precognition. Precog. Sono quelle due click che permette di sistemare le carte su R&D e eventualmente mutare per qualcosa che ti serve effettivamente in quel momento su quel server, sia l'R&D locato, che sia la Kaku, perché è un team, e così. Stiamo però sempre parlando di questa carta, così è Jinteki. Sì, però cioè Mutate la metto al posto di, nel senso, cioè la metto sicuramente in quei mazzi tipo Replicate Imperfection, che voglio far incontrare l'ice alla runner e fargli delle cose quando lo incontra, perché è chiaro che perlomeno questa è la mia opinione su Replicate Imperfection, il mio obiettivo è nei centrali mettere ice che facciano qualcosa al runner quando li incontra, perché altrimenti poi il runner fa check out e mi va sui remoti, però intanto si deve beccare delle subroutine, e quindi magari inizio con la partita con, che ne so, devo mettere per forza su R&D un ice che non fa cose, ma tipo fa solo land run, e magari lo voglio cambiare per metterci qualcosa di più palloso, tipo che so, Pup piuttosto che Koimanu, quelle carte lì. C'è Susanoo Mikoto che potrebbe essere interessante da riuscire a mettere lì, perché costa, mi pare, 9 costa Susanoo, sì. Mikoto, quindi insomma è un bello stopper, un bello grosso, che soprattutto ti manda verso gli archivi che solitamente sono la festa di Jinteki. Sì, però, sì, quel tipo di, però quel tipo di Jinteki che insomma non credo sia tanto efficiente, un po' più for fun, quello che fa i danni. Sì, probabilmente sì. Comunque rimane una carta che contrae di influenza per funzionare con l'altro. Deve provare solo funzionare su Jinteki. Sì. Sì, sì, sì. Lo lasciamo lì, ma comunque. Vabbè, ha sempre una carta in più. Quando dice una carta in più vuol dire proprio che non è crack. Comunque. Ah, ok, mi hai beccato. Near Earth Hub Broadcast Center. Una identità per NBN. Penso che vedremo giocata, perché è una 45-17, due simpatici punti influenza in più, e l'abilità non è da ignorare. Io, a me mi sarebbe sembrata forte se fosse stata anche già solo una 45-17 da sola. Poi però tutte le volte che, no, la prima volta che crei un nuovo server ogni turno, peschi una carta. Cosa dobbiamo dire? Io non lo so come mai, però è un anno e mezzo che stanno soltanto mettendo carte in NBN fortissime. Sì, abbastanza. Questo qui permette un Astro Train con economia trasversale, quella famosa 1000 remoti, per esempio. Sì, certo. Ma anche, secondo me, tranquillamente anche Scorched Earth e Punitive Counter Strike nello stesso mazzo. Assolutamente, cioè un sacco di cose. Questa qui è perfetta perché non ha, come dire, per quello che era uscito adesso, chi giocava NBN usava le due identità senza veramente sfruttare al massimo, diciamo. Beh, no, aspetta, The World Is Yours è una signora identità, sì, no, vabbè, effettivamente con una, però era una carta in più, cioè era un'utilità. Sì, sì, sì, sì. Qui è il risparmio di un click, il risparmio, sì, del click, sì, sì. Si potrebbe anche pensare di non mettere più tra Jackson Howard addirittura, cioè sono diverse cose che si può pensare. E poi due punti di influenza in più, signori, non so veramente quello che hai detto tu. Mettiamo tutto qui e la mettiamo, si mette dentro di tutto un mazzo, sì, sulla nostra trovazione con 17 punti. Non sai veramente cosa incontrare, cioè che cosa ti devi aspettare da un Near Earth Hub Broadcast Center. Comunque sì, direi che devo trovarci un nomignolo perché non potrò mai nominare. Nebk. Ma guarderò la figura e poi gli troverò un cavolo di nome. Sì, vabbè, però Broadcast Center non è male, ma se basta non dire Near Earth Hub. E comunque secondo me manda a casa tranquillamente la core, cioè a mani, sì, basse, a mani, sì, basse, sì, perché comunque la Trace non è mai stata un granché come abilità, la sfrutti giusto e non ti fa tantissimo la differenza. Questa secondo me la differenza te la fa e come ste belle pescatine. Però devo dire che un po' influenza anche un pochettino come struttura il mazzo, cioè non metterai magari la burst economy, metterai molta più economia stile pod campaign, market accounts e private contracts, e quindi potrebbe essere, come dicevo prima, completamente, ma no, completamente no, però ci potrebbe essere un mezzo negativo con Wizard e Company, insomma. Sì. Chi lo sa, dipende tutto da come si sviluppa, quanto verrà giocato, però insomma fantastica identità da giocare appena esce. Sì, sì, assolutamente, da provare su Octagon prima che esca. Primary Transmission Dish. Allora, questo è un asset, costa 2 da rezzare, 3 da trasciare, quindi già la ratio è abbastanza a nostro vantaggio, e mi dà 3 crediti ricorrenti per no, scusa, non so. Sì, scusa. Sono ricorrenti, sì, da usare per le trace. Giusto, mettiamo in pensione la, sì, esatto, la dei core e mettiamo una carta che eventualmente ci dà 3 crediti. Ma non credo la vedremo tantissimo, però insomma se fai un mazzo con tutte e tre, insomma. Esatto, serve solo per rinforzare quell'idea del trace, che secondo me manca ancora qualche carta definitiva. Può essere anche una buona sorpresa, eh? Cioè tu per esempio, che ne so, vai contro qualcosa che pensi che di riuscire a battere le trace, perché io sto messo male con i soldi, però tanto, come dire, il costo di Reds è 2, e se poi ci metti, cioè, sì vabbè, c'è uno scarto di 1 per devi usarla se più e più volte, naturalmente sì, uno esatto. Di quegli asset deve essere usato e protetto, quindi. Però insomma, tre crediti è sempre economia in un certo senso, ricorrente sotto certi aspetti, da mettere lì, è una carta, la useremo. Quando dici così a posto, bocciata per... no, non ancora, non del tutto almeno. Va bene, Midway Station Grid. Allora, questa è un upgrade sotto tipologia Beanstalk Region, quindi come tutte le regioni devono essere limitate a una regione, tipologia di regione per server, quindi non possiamo mettere, che ne so, quella e Sansa nello stesso posto. Costa 4 da rezzare e 4 da trasciare, onesto. Il runner deve pagare 1 addizionale. Il runner deve pagare 1 come costo addizionale ogni volta usa un icebreaker per rompere una sabrotine durante una run su questo server. 4 di influenza. Allora, guardo, c'è subito un ruling da andare a controllare. Deve pagare 1 ogni volta che usa un icebreaker per rompere una sabrotine, e quindi sono più sabrotine, deve pagare 1 in più, o funziona solo una volta per ice? Each time usa un icebreaker per rompere una sabrotine. Breaker sabrotine, quindi sì. Se così nella versione cattiva è ogni volta che rompe una sabrotine. Ogni volta che rompe una sabrotine è un costo devastante. Esatto. Uno in più non è male, comunque, insomma, non è. Uno in più non lo vedo così forte, più che altro perché ha un costo 4 di rez. 4 di rez, che oltretutto con 4 di influenza automaticamente la mette difficilmente in un altro mazzo, quindi non la puoi mettere insieme a Sansa. Quindi va direttamente da HQ. Però cosa rezzo? Rezzo Sansa o rezzo questa? Certo. Cioè, non posso rezzare tutte e due perché forse non ho abbastanza economia. No, questa va probabilmente nei mazzi che ti vogliono tassare per tenerti basso con i soldi, però purtroppo il problema è che ti tassi prima tu. Esatto. Quindi non lo so. Vabbè, nella versione sgravata è comunque super forte. Cioè, nella versione sgravata è fortissimo. Ti metto un Hive, vabbè, Hive ti becchi l'Enderun e vaffanculo. Però ti metto un Archer che ti devi rompere tutte e tre le Sabrotin prima di arrivare all'Enderun. Sono proprio sordi comunque, sono tanti. Sì, ed è una bella surprise, perché magari tu pensi di entrare su quel Janus, hai fatto tutti i tuoi conti, invece non ci entri. Sì, è un po' come quel corpo del troubleshooter, è un upgrade di quelli belli, belli trappola, quindi è interessante. C'è poi da vedere appunto questo ruling qua, ovvero quanto, se effettivamente quanto costa. E poi dove farci restare, ma carta super mega promossa, super mega utilizzabile per adesso. Almeno sulla carta, ecco, diciamo così, almeno dal mio punto di vista. Passiamo al lato Wayland. Root, che Wayland lo so che ti piace. È asset Beanstalk. Quindi, come hai notato, abbiamo tipologia Beanstalk già su due carte, Midway Station e The Root, probabilmente anche Near Earth. Quella è una division, ok. E The Root, 3 crediti ricorrenti, usa questi crediti per avanzare, installare o rezzare carte. Oh, mica male. Scusa, non ho detto quanto costa. Costa 6. 6, esatto. Però è come costasse 3, dai. È come costasse 3, perché comunque te ne avvantaggi subito. E 4 da trashare, quindi fondamentalmente, come dire, se già la usi due volte, ti è costata 0. Chiaramente liquidità persa in anticipo, però insomma 4 da trashare non è banale come costo di trash. Ha 3 di influenza, quindi la vedremo plausibilmente più spesso, cioè più spesso se non solo in Wayland. Sì, è una di quelle carte che, come vedevamo per esempio con Simon Diego, che si diceva non si può usare perché si usa solo in un server. Io l'ho visto utilizzare anche bene. cavolo, questo ha una funzione, esatto, una funzione ovunque, e non solo per l'avanzamento, cioè il stallo e anche il res. È una carta che automaticamente subito, una volta utilizzata anche col primo o secondo click, mette sei già in pari con run se te la vuole trasciare. Sì, e non solo, io me la immagino anche che sta lì tranquilla, rezzata, mi fai una camp siphon dicendo adesso ti rendo povero e così non puoi avanzare quell'agenda che stavi lì avanzando. Io non solo mi abbasso i soldi per affinché il tuo account siphon faccia più cacare, ma poi ce l'ho bella pronta per poter utilizzare in un secondo momento. Insomma, è chiaro che è una condizione abbastanza rara e remota, però No, invece secondo me messa in early game contro la Cast Siphon è una difesa molto grande questa, perché poi comunque abbiamo sempre tre crediti per rezzare quel volo statico, quell'ice wall che ti hanno tolto i crediti, ma tu ce li hai. Quindi secondo me una gran carta che cambia molto un po' il modo di giocare. Praticamente ti dice metti via sti sei crediti a fronte del fatto che poi però ti ritrovi ogni turno. No, secondo me è la giocata. Va bene, allora Taurus. Allora, Taurus è un Ice, è una Sentry, è un Tracer. Costa 5 da rezzare, forza 5, hai capito? 5 per 5. 2 di influenza. La sua subroutine, unica subroutine che ha, è un Trace 2. Trace un po' poverino. Se ha successo, trascia un hardware, che non è male. Se la tua Trace ha una forza 5 o maggiore, trascia un altro piece of hardware. Quindi fondamentalmente riuscirebbe eventualmente a trasciarti due hardware nel momento in cui tu li fai avere 5 di forza almeno, e il runner non te la incontra, cioè non incontra la Trace. Che dire, questo qui sembra quasi uno di quegli Ice che dovrebbe giocare NBN Core. Si trovava il flare che costava troppo, che costava 9 rezzarlo. Questo costa 5, un Trace che parte da 2 però può essere pompato. Sì, con l'identità quella Core, oppure addirittura con Nearer Tab puoi tranquillamente tollerare. Ah no, vabbè, l'identità Core ti dà il più alla Trace. Però insomma, puoi tollerare tranquillamente la. No, il problema è che invece su. No, perché comunque costando 2 di influenza, quando io ho messo 3 Scorched Earth, ho solo 3 di influenza rimasti, quindi ho solamente lui da solo che posso metterlo così. Se lo pesco bene, se non lo pesco ci. Sì. Beh, comunque non serve, in realtà non servirebbe più averne 3, potresti solo averne 2, per esempio. Sì, certo, che comunque ne spari 2. Non è male. Stiamo parlando. Cioè, volevamo. Ma sì, dai, Wayland, non scorci abbastanza. Ti abbiamo messo il counter e mettiamo il counter del counter. Sì, in effetti fondamentalmente è questo quello che ci sta arrivando. Ma ti dico, io mi sono già espresso a riguardo, secondo me ha senso il discorso counter e counter del counter, perché se pensiamo a un'ambientazione dove c'è praticamente una timeline che si evolve, c'è in commercio questa plascrit, cioè Wayland lo sa, dice cazzo, però non è possibile che tutte le volte che proviamo a uccidere i runner buttiamo giù i palazzi e loro non muoiono. Bellissima immagine. Esatto, cioè spacchiamo tutto quanto, poi loro alla fine si salvano, non va bene. Facciamo un Ice che arriva direttamente all'hardware e lo rompe. Ecco, dopo tanta ricerca e sviluppo e dopo tanto lavorare, abbiamo creato Taurus. Ah sì, bravi, applauso tutto quanto, e adesso c'è Taurus che. E poi, insomma, i runner si inventeranno qualcosa per rompere Taurus. Beh, è molto semplice, forse troveremo ancora a giocare quel piccolo quadratino verde, quel piccolo cubetto verde che tutti hanno schifato dall'inizio del corso. Quel costrutto sacrificale, quel fusibile. Ma perché? Ti consente di usare anche i hardware? Non solo i program? Mi pare di sì. Adesso vorrei. Forse sto dando una cavolata. Non lo so, guardiamoci. Comunque, diciamo che secondo me è una carta interessante, più che altro perché non è automatico che succeda. Con quel 3-2 è giocabile. È giocabile da entrambe le parti. Non sì. È. Sì, però chiaro, è in mano alla corp che ha la liquidità maggiore in assoluto. Beh, lo era anche col Seasource, l'è sempre stata. Sì, sì, certo. Va bene, passiamo oltre. Mother Goddess. Confermo che il cubetto previene anche un Piece of World Armor, quindi... Quindi sì. Runner avvisato, mezzo salvato, esatto. Sì, vabbè, però dai, non puoi metterti a dire, cazzo, metto la plascrit, poi metto anche il salva plascrit. Però sai, qualcuno qua giocava dei power shutdown. Sì, esatto. Era uno dei counter che comunque si è visto giocare quando era appena uscito power shutdown. L'ho visto più che altro nei tornei che ho organizzato a Vigevano, appunto, nella zona. C'è stato quel momento. Sì, ho visto che si utilizzava sia Power Shutdown e come risposta autonomamente era stato montato dei cubetti che hanno funzionato. Ma sì, alla fine dai, il cubetto ci può stare, ti salva anche da un eventuale Grim, insomma, dai, ci piace. Insomma, ragazzi, Shaper, mettete i cubetti nei vostri mazzetti. Esatto. Allora, Mother Goddess è un ice, non c'è nulla da dire, semplicemente che è mitico. Mitico! A forza mitico. 4. A forza 4. Costa 4, quindi già è molto buono. Ha un end run, io mi fermerei anche qua perché insomma, mi sembra così è basso. Che... Peccato che guadagna tutti i sottotipi degli ice rezzati. Che significa? Buonissimo in early game, come lo è Chimera. Ma, sì, poi, ma secondo me anche Rainbow è super forte, perché cioè, se tu ci pensi, nella migliore delle ipotesi che ti tirano fuori un Corroder, comunque costa 3 da rompere, sì. Insomma, mi sembra... In realtà forse è più forte questo, perché appunto in early game... Sì, non ce l'ha. In early game dipende da quello che hai rezzato te. No, ma quindi... va in combo anche con i next, fortissima, a me piace molto. No, però è una cosa negativa in realtà, perché sì, più sottotipi certo, prende, più prende, più può subire gli attacchi generici di tutti gli icebreaker. Ma che me frega, cioè 4 a costo 4 me lo posso anche permettere, cioè è come fosse un Rainbow, sì. Cioè insomma sì. Dici, tu guardi ai miei soldi, no? Insomma, io con Rainbow pago 3, cioè 4 con un end run, questo pago più, però mi comba con i next silver. Ma a te ti piacciono gli ex colorati, per quello. Esatto, sono un po' gay pride. Ma comunque è una carta interessante, si può mettere se uno lo vuole, se uno lo spazio. No, non ne sentiremo parlare, più andremo avanti con questi next, più ne sentiremo parlare. E Galahad, che sarebbe Galad. Beh, allora, partiamo subito con l'ice che non verrà mai giocato perché è impronunciabile, secondo me. No, dai, basta dire Galad. Galahad. Va bene, è una barrier, costa 2, forza 1, già ci piace. Enderun ce l'ha, neutrale ma costa 1 di influenza. Quando il runner incontra Galahad può rivelare fino a 2 ice che si chiamano Grail dalla sua mano per per tutto il turno. Galahad ottiene le subroutine degli ice rivelati nell'ordine a tua scelta, quindi metterai plausibilmente prima i vari rompiballe e poi in fondo gli andrà. Che dobbiamo dire? Non l'abbiamo ancora visto anche Grail. Quindi. Sì, insomma, Grail l'abbiamo visto in qualche spoiler, ma insomma, aspettiamo che diventi forte. C'è un solo problema che vedo, che a me è proprio... tu devi tenere in mano sti ice. Sì. Però magari gli altri Grail fanno delle robe assurde. Cioè, non stai seguendo la vena combo della Fantasy Flight. Scusa, hanno fatto l'identità, tieni in mano le carte, pare i soldi che hai, insomma, ti sta urlando quell'identità. Non posso crederci, dimmi no. Dice che così, oddio. Eh sì, perché tanto voglio dire... Sì, ma quanto dobbiamo aspettare? Io cioè 4 anni per vedere un po' di questi Grail. Vabbè, ma a me mi interessa il giusto, secondo me saranno semplicemente belli for fun da giocare per poter raccontare quella volta... Gli ho mostrato questa cosa qua e questa cosa qua, se l'è beccato tutto in faccia. Sì, yeah, high five. Come sei arrivato al torneo? Ultimo. Ma poi questa Galahad chi è? Ciclo arturiano sicuramente, quindi Sacral Grand. Sì, guarda, mi trovi veramente impreparato. Io sono più per il futuro che per il passato. Sì, è detto anche Galeazzo, il nostro caro cavaliere Galeazzo, quindi vuol dire che ci troveremo, e sarà molto figo, troveremo tipo Lancillotto, Lysa Lancillotto, Lysa Artù e così via, e così via, e così via. Sarà fantastico. Vabbè, ci piace ricordare Netrunner così, pieno di mitologia del passato. Comunque, passiamo a Bad Times, è una Operation neutra, Grey Hope, e costa 4, quindi costa. Però attenzione, gioca solamente se il runner è taggato, quindi costa addirittura più che Scorched Earth, e in più ti dà lo stesso malus di Scorched Earth, cioè devi essere taggato. Attenzione, come direbbe il buon Beast del Circle Evolution, attenzione, il runner, la memoria del runner è ridotta di 2 fino alla fine del turno. Di late game, direi. Ma io in realtà la carta che stavo cercando per un certo tipo di archetipo che stavo pensando, ovvero l'NBN Taggone. E questa è quella NBN che Taggone dice. Sì, perché comunque è innanzitutto neutrale, quindi non ti imbocca, esatto, l'influenza. E in più l'idea è quella che tu ne riesca a giocare una, due, anche tre in un turno. E boh, che costa un bordello, cioè, costa tanto. Vabbè, ma ne basta due in realtà. Sì, se ne bastano due, ti mando quasi a zero, se non a zero, e ti spacco tutto. Questo è quel combo che permette a questo archetipo qua che stavo pensando di non dover per forza basarsi su Scorched Earth, che riempie l'influenza di qualsiasi mazzo NBN, e permette poi di andare a chiudere la partita, perché una volta finiti i programmi cosa si giocheresti? Fa? Taggone Beh, Taggone attualmente ha bisogno di season assolutamente, sì. Ice che taggano nel tipo, sì, Data Raven, sì. Comunque è un mazzo che sto pensando che deve essere tassante, perché sì naturalmente cosa account, queste cose qua proprio che rovinano la vita. Poi naturalmente le agende che servono, ovvero Psychographics da usare su Bill. Project Bill, certo, o anche su Market Research, che è con, certo, un comodo da 3 punti agenda. Si gioca TGBTT, certo. Breaking News, sono quelle. È giusto pensare al giusto mix di ice, perché questa permette di fare dei arrivare a mid game, taggare il runner, togliergli i programmi e poi essere sicuro che lui non passa. Quindi hai quei 2-3 turni che se lui ha un déjà vu, qualcosa che gli permette di fare recursion sul cimitero, recuperare i programmi, però intanto sei salvo per quei 2-3 turni. Sì, ma poi hai fatto una tassa tremenda, cioè va bene che tu paghi 4, però anche lui gli avrai spaccato della roba da 3, da 4, senza nessun problema, se non gli hai spaccato le Femme Fatale, cioè robe veramente pesanti. Va bene, dai, non vedo l'ora di giocarti contro con il mio simpatico mazzo Tag Me, che così ti aiuto nella tua... Presto, ammetterò un sacco di decoy, se ritorniamo, esatto, ai bigodini. Bene, cosa pensiamo? Sì. Passiamo, direi, alla... Ma abbiamo finito con la Corp, sono tantissime le carte Corp. Abbiamo finito con la Corp, però sono tante, sono 12. E al contrario, invece, delle carte Runner, che sono 8. Allora, Cyber Threat, un evento che costa 1 e lo puoi giocare però solamente come tuo primo click. Scegli un server, la corporazione può rezzare un ICE che protegge quel server. Se non lo fa però, puoi fare una run su quel server, no, la devi fare, make a run, quindi non puoi quindi la devi fare per forza in quel server, nel quale però in questa run non può rezzare ICE, quindi fondamentalmente fa lo stesso effetto di blackmail, dandoti questa opportunità di poter rezzare un server. È una specie di incrocio fra blackmail e forged activation order, non lo so, esatto, sì è un bel incrocio, anche perché costa lo stesso di un forged. È vero che non puoi selezionare l'ICE, sì, esatto, però in early è pesantino, perché ti obbligo sì, perché fai scouting, sì. Lui se lo rezza sai cos'è e ha speso dei soldi, se non lo rezza entri, quindi niente male. Attenzione, è un evento priority, non è un evento run, perché comunque la run la fai solamente in caso lui non regge, quindi probabilmente non l'hanno voluto dare run. Quindi mi dispiace, caro Kentemma, be back in time, Kentemma. Niente, scusate, quello era September. E quando dico Kentemma mi parte in automatico quella canzone. Vabbè. Stavo cercando di farcelo piacere questo tema. No, a me piace, io lo lo sostituirei volentieri a Criminal se non giocassi Andromeda. Se non giocassi Andromeda, hai detto giusto. Oh, poi ci si fa. Vabbè, passando oltre da Cyber Threat, che ci piace, lo vogliamo vedere giocato. Viva gli Anarch, che sono stati esatto. Che sono stati un po', diciamo, distrattati da quando hanno visto che Noise funzionava troppo bene. Hanno cominciato a smettere di fare carte buone per gli Anarch. Ha detto: ma sì, prendi questa carta che non serve a nulla, prendi anche quest'altra che ti danneggia e basta, e così via. Facciamo un po' di Kaisa che non servono a niente, tranne Knight. Knight ci piace. Comunque, Lamprey, ne parlano, tutti dicono: ah, Lamprey, la carta. Perché? Perché è un program virus, e già ci piace. Uno di costo e uno di memoria come impegno. Quindi già Noise ringrazia, perché comunque anche solamente te la metto giù solamente per millarti una carta, ho fatto un mill a costo 1, ci piace. Quando fai una successful run su HQ, la corporazione perde un soldino, quindi portiamo avanti il discorso del denial, pian pianino, un pezzettino alla volta. Chiaro, Trash Lamp c'è anche un difetto, fortunatamente, che devi trashare Lamprey se la corporazione fa il virus purge. Quindi, insomma, è facilmente distruggibile quando ti comincia a dar fastidio, però... Oh. Guardiamola, è un virus, costa un credito installarla, fa perdere un credito ogni run sull'HQ. Stimola a farti perdere un turno. Stimola anche la diuresi. Secondo me, Lampredino ha il suo perché, insomma. Sempre messo sempre in quell'ottica lì. Si può andare anche da altre parti? Potrebbe, però sembra quasi... Chiama un po' Criminal, dici? Potrebbe, però Criminal ha sempre poca memoria. Sì. Comunque questo sembra quasi un programma di quelli che ogni tanto ti salta e tu sei tranquillo, perché tanto, per esempio, con Anarch ne hai altri 1000 da installare, no? Sì. È molto bello, perché è molto equilibrato. Ecco, su questo sì, esatto. Fosse costato 4, ho detto, sì, vabbè, prima che li recupero, invece qua... Si può usare, per esempio. No, vabbè, se te lo trasciano con un purge, cioè non può costare qua. Cioè, deve avere uno è giusto. Ah no, bella carta. Due belle cartine per Anarch, eh. Peccato che sono già finite. Sì. Senti, com'era quel mazzo che volevi fare che ti tagga un bel po' così? No, perché hanno inventato adesso una nuova cartina che si chiama Paper Tripping. Un evento priorità che costa 4 soldi. Lo puoi giocare solamente come primo click, quindi abbiamo capito che questa come dire, questa tipologia di eventi priorità priority probabilmente avranno tutta questa cosa del puoi giocarlo solo come primo click, forse anche un po' per evitare che se ne usi più di uno durante un turno, quindi insomma o giochi Paper Tripping oppure giochi Cyber Threats e non puoi giocare magari più di un sicuramente non puoi giocare Cyber Threat come più di una volta nell'arco dello stesso turno. Comunque rimuovi tutte le tag. Che devo dire? Lo sapevamo. Dovevamo... Sapevatelo. A noi ci piace rovinare archetipi. Esatto. Io questo qui lo giocherei in un tag me, cioè gioco tag me finché mi va, poi a un certo punto dico ok, adesso ritorniamo in una situazione in cui posso star tranquillo e mi gioco Paper Tripping, però non lo metterei. Lo giocheresti come Criminal? Costa 4, costa troppo, cioè 4 con 4 me ne tolgo 2 di tag, ma quante cacchio ce ne devo avere? Va bene che Mid-Season Replacement ne mette 100.000. Probabilmente è una carta da meta questa. È una carta che se pensi arriva il mono mazzo che giocano tutti quello che ti mette le tag, sì, però boh. Cioè non è plascritta, capito? Cioè non è che la devi mettere per forza, altrimenti muori, perché nel turno della corp tu non ci puoi far niente e ti uccide. Sì, è una carta effettivamente che tu dici o non me li prendo i tag o non me li prendo. Cioè, se me li sono presi è perché sono stato stupido. Perché me li sono voluti prendere o comunque l'ho messo in conto. Va bene, power tap. Bene, allora, abbiamo messo bene in chiaro che non dovete giocare questa carta, per favore, ragazzi. Sì, esatto. Se no poi Luca non fa più il mazzo che non funziona e poi vince tutti i tornei. Mi viene già da piangere perché... che già ho messo la carta count. Va bene. Power tap è una risorsa, costa 2, è criminale, 1 di influenza, ottieni un soldino ogni volta che una trace viene iniziata. Carta legata al mazzo dell'avversario. Ma come cazzo fai a pensare di mettere una carta così in un mazzo? Occupa uno slot, anche se costa solo 2 crediti, 1 di influenza, occupa uno slot. Uno slot che... è una carta che non... cioè, che tu non è che dici, vabbè, è sotto il mio controllo quando cominciano le trace. Non è sotto il mio controllo, quindi cioè, sto soldino non lo prenderò mai. Cioè, a sto punto mettimi... vabbè, sì, non è proprio come averci un link, però insomma... è che in realtà probabilmente, adesso ne dico una molto strana, però è una carta che potrebbe essere solo utilizzata se i tre spartissero nel turno del runner, cioè... per dei programmi o delle cose del runner che fanno partire dei trace, non so come spiegarlo. Sì, sì, sì. Qualcosa che hai il controllo della situazione, oppure una pesante degli ice che funzionano, degli icebreaker che funzionano a trace addirittura, e quindi si possa pensare di fare un mazzo con tanti link contro i trace, appunto, che tu sai di utilizzare. Però stiamo parlando di qualcosa di fantascientifico, e anche se sì, stiamo parlando di Android Netrunner, che è abbastanza fantascientifico, è ancora più fantascientifica sta cosa. Sì, perché vuol dire comunque dare all'altro, cioè dare all'avversario una meccanica che è tipica della tua fazione. Esatto. Va bene, non ci sei piaciuta Power Tap, non ti dedicheremo ancora tempo, però possiamo dire che ha il nome più bello perché ricorda una delle tecniche chitarristiche più fighe del... Ah, ecco, vedi, non avevo minimamente colto la cosa perché... Peccato che faccia schifo, peccato. Niente, andiamo avanti. Passiamo a un'identità. Nazir Meidan. Ah, uno di link, già ci piace. 45-15, un classico, è un cyborg. Ora, l'abilità che ha... l'abbiamo già vista negli spoiler, insomma è un po' di tempo che ci pensiamo sopra, però finché non la vedi giocarci scontro non ti rendi conto come cavolo funziona. Io mi ci hanno giocato su Octagon contro e l'ho trovata un malus della Madonna a sfavore del runner, forse perché lui non riusciva a capitalizzare questa situazione, forse perché io avevo veramente il mazzo che gli andava perfettamente contro, perché avevo tutti ice che si realizzavano a costi bassissimi. Però l'abilità, vabbè, l'avete già vista, è tutte le volte che incontri un ice che è stato appena realizzato perdi tutti i crediti nella tua credit pool, e però poi dopo ottieni crediti pari al costo di rezzo di quell'ice. Sicuramente cambia radicalmente il modo di pensare il runner. È moltissimo. Io è una carta che veramente cambia la metodologia del gioco, come lo era Riel in un certo senso, perché cambiava l'idea di vado solo su un tipo per un certo tempo e faccio qualcosa, solo quella cosa. Questo è ancora peggio. Sì, sì, cioè questo ragazzo che mi ci ha giocato contro, questo account che mi ci ha giocato contro usava praticamente Personal Workshop per cercare di sfogare tutti i crediti prima di incontrare l'ice in maniera, diciamo, dinamica, in maniera paid ability. Quindi io, sì, tu rezzi l'ice, io decido, cioè capisco che cosa sta succedendo e decidono o meno se pagare i crediti per Personal Workshop. Però cioè io non vedevo l'ora che lui facesse delle run, perché gli facevo praticamente tutte le volte gli facevo un closed account. Perché cioè, ti rezzo Quandary, ti rezzo Draco, ti rezzo Warp Around, cioè te ha voglia fai soldi. e quindi deve essere, bisogna costruire un mazzo basato sul fatto che non hai soldi, cioè continuare a spendere soldi. Probabilmente un mazzo pieno di risorse, non lo so, sto pensando. Beh, oppure comunque accumuli di soldi altrove, tipo vabbè, Armitage Goodbusting. Questo giocava sia Armitage Goodbusting che Magnum Opus, insomma, opinabilissimo come tipologia di mazzo che aveva fatto. Beh, Magnus Opus non lo utilizzerei, comunque qualcosa che dinamico, che subito sul momento puoi andare a raccogliere crediti o forze. È una cosa un po' particolare, cioè con i Data Saga probabilmente funziona queste cose qua. E che dobbiamo dire? Almeno è qualcosa che sulla carta sembra qualcosa di nuovo e che può funzionare. Ok, non sembra un'abilità un po' morta. Cambia anche il modo di giocare, sicuramente. Sì, radicalmente. Non lo so, io non vedo l'ora che qualcuno ci stupisca tutti quanti con un mazzo combo basato su Nazir, anche se cioè, come dire, un'abilità che fa affidamento comunque sulla corp che regge o non regge, o comunque a seconda di quello che regge, secondo me non è tanto vero. Cioè non è tanto sotto il tuo controllo, quindi fondamentalmente non ci puoi fare un mazzo intorno. Insomma, parliamone, snitch, basta inserire già uno snitch dentro e permetterebbe di avere quella lettura in più all'inizio, sì. Soprattutto all'inizio, perché comunque va a rompere a essere completamente in vantaggio contro i Big Glacier. Sì, io rezzo questo bel Adrian's Wall, bene, ho 10 crediti che adesso uso per fare la run e li uso. Sì. È interessante montarci un mazzo, ci si proverà. Sì, dovranno fare dei mazzi con un casino di crediti ricorrenti, perché poi non hai soldi per pagare i breaker, cioè lì per lì sei in difficoltà. Va bene, Social Engineering, un evento shaper che costa 2, giocalo solo come tuo primo click, quindi è una priority anche questa. Scegli un ice non rezzato. Se la corp rezza quell'ice, ottieni crediti pari al costo di rez. Questo è un bel denial, la madonna. Sì, però aspetta, però dopo non c'è non la parte dopo che fai la run e non li puoi rezzare. No, perché questo come hai detto tu, metti che targetto un Pondari cornuto ammazzato. No, ma soprattutto se gioco come Nazir, non c'ha senso. Aspetta un attimo, fammela rileggere. Allora, scelgo un ice. Se la corp lo rezza. Ah, in questo turno. Ah, ok. No, sì, non avevo capito la cosa di questo turno. Perché dicevo, ma la corp non lo rezzerà mai. No, sarà durante la run, che naturalmente poi tu farai. Quindi stiamo parlando di avere un click. Però guarda che questo secondo me è molto meglio, perché non essendo una run che viene fatta durante l'evento, è vero che spendo un click in più, però quel secondo click potrebbe essere una Count Siphon, potrebbe essere un indexing, cioè posso aggiungere un evento run a questa combinazione, perché mi sono garantito che nel turno tu abbia quel malus lì. Sì, cioè in realtà non è un malus, è un bonus per te, perché non è che ci perda o ci guadagna. No, infatti. Ecco, però stiamo sempre una cosa, io metto, sì, oddio, è vero, effettivamente gli ice a costo zero non sono più una grossa penalità, poi alla fine si spaccano, si passano agilmente. Beh, però costa 2 da giocare, insomma. Questa qui costa 2, no? Ti impegni non poco dal punto di vista economico, a fronte di cosa non si sa. Cioè, alla fine va solo bene, e dico solo bene, nel caso di ice che costino forse 2 o più, neanche 3 o più, perché comunque spendi un click, spendi 2 crediti, no, beh, con 2 o più già ci siamo in pari. Ecco, se costa 1-0, insomma, è proprio quello davaziato. Carta che dovresti giocare con Nazir, non si farà scrupoli a rezzare, cioè non è che dirà no cazzo, se rezzo i soldi vanno a lui, ma che me frega, cioè se devo non fare entrare un index in te lo rezzo, e come, un account siphon. Però ci sono, diciamo, delle situazioni in cui si potrebbe riuscire a ottenere qualcosa. Per esempio, 2 di influenza io la giocherei su Silhouette, perché comunque vedo anticipatamente gli ice e prendo delle decisioni molto più ragionate. Knowledge is power. però è anche lì, insomma, Snitch, queste cose qua, è quello che dovrebbe aiutarti a fare una scelta. Il problema è che, cioè, se devo giocare delle carte per far funzionare una carta, piuttosto non gioco la carta. Se invece ce l'ho come potere di base, che già mi serve per fare altre cose, questa è un'aggiunta che rende semplicemente giocabile Social Engineering. Certo, no, beh, naturalmente questo deve essere messo tutto in sinergia. Cioè, se io gioco Snitch perché mi serve, perché mi è utile, allora posso mettere anche questo e così via. Occupano slot. Sempre sì. Esatto. Ma perché non mi di fare 45 card? Dobbiamo fare 60 carte come in Magic. A me faccio fare. Il runner può giocare quelle che vuole, quindi insomma, se vuoi. Non le trova più, però. Esatto. Allora, Leprecauno, demone, programma demone, che costa 2 da giocare e 1 di memoria. Il Leprecauno può ospitare fino a 2 programmi. Il costo di memoria di questi programmi non conta contro il limite di memoria. Attenzione, non stiamo parlando di 2 memorie, ma 2 programmi, quindi io ci posso mettere anche un programma che costa 6 di memoria e quello mi conta come un programma. Sì. Quindi Morning io gioco Star. Quando? Esatto, no. Morningstar, Garrot, come si chiama quell'altro? Magnum Opus e Battering Ram. Niente male, eh? Morningstar e Battering Ram si fanno la concorrenza. Quindi Garrot non è male come Ice, come Icebreaker, insomma. Quindi vuol dire che con queste carte qua possiamo parlare di nuovo di fare un big rig ancora più competitivo? Sì, secondo me inizia a essere plausibile giocare big rig senza problemi. Cioè, guardiamo il costo, 2 crediti, è pochissimo. Sì, quindi. Sì, sì, no, accettabilissimo. Accettabilissimo. L'unico problema, chiaramente, è siccome lo osti lì, ti spacco le Leprecauno. Cubettini, esatto, cubettini. Cubettini su di noi. La risposta era già proprio all'inizio, in quella scatola base. Allora, nella scatola base già avevano pensato alle Leprecauno. Bello. Mi piace, lo vogliamo vedere giocato. Volevamo giocare, sì, nella NBN. Infine, Eden Shard costa 7, risorsa virtuale source, cioè fonte, costa 7 da giocare, però attenzione. Whenever you make a successful run, in qualsiasi momento fai una run di successo, su R&D, invece di accedere alle carte, allora, io quando leggo invece di accedere alle carte, mi aspetto un potere della Madonna, perché insomma io sono riuscito a entrare e adesso voglio entrare. Se non mi fai accedere, ci deve essere un buon motivo, ci deve essere un indexing, ci deve essere un keyhole, ci deve essere quello che ti pare, insomma fai qualcosa di buono. Vediamo cosa hanno fatto. Puoi installare Eden Shard dalla tua mano ignorandone il costo. Allora aspetta un attimo, se costa 7 e posso ignorare, cioè devo perdere un arancio R&D per installarlo, deve fare un effetto della Madonna. Ha una paidability proprio, cioè tipo game changing. Esatto. Allora, la sua abilità è trescialo e la corporazione pesca 2 carte. No, ma è sbagliata. Hanno sbagliato a scrivere. Ah no, aspetta, costa uno di influenza, non è proprio neutrale. Ah, ok, va. È elitaria. Ah, ne puoi mettere poi una per deck? Sì. Ah, scusa, è vero, c'è anche un limite di uno per deck. Hanno sicuramente sbagliato a fare lo spoiler. Non è sicuramente così, è impossibile. Signori, erano ubriachi quel giorno. No, aspetta, ragazzi, c'è qualcosa che non stiamo capendo. Allora, quello che non stiamo capendo, cioè qui dobbiamo ragionare come farebbe Sherlock Holmes. Cosa non sto vedendo in tutto. Quindi a togliere i programmi a rimettere i programmi sulla cima del mazzo. Esatto. Madonna mia. E vabbè, comunque, quando pensi troppo a Netrunner, esatto. Anche ai primi insomma. Bene, non lo so. Aspetta, segui il mio ragionamento. Sì, allora, sarò il tuo Watson per... Fammi un attimo il Watson. Allora, se esiste una carta di questo genere è perché questa carta è semplicemente un ambasciatore di qualcosa che sta per arrivare, per cui far pescare 2 carte alla corporazione è fortissimo, fighissimo, figata pazzesca. Cioè, ci deve essere qualcosa che sta arrivando in futuro che che far sì che far pescare due carte, magari anche nel turno dell'avversario, perché è una paid ability, quindi anche nel turno della corp, è super forte. Ma che funziona solo una volta. Sì. E che ci hai messo tipo un casino di tempo a riuscire. Prima a ho fatto una run sulla R&D Bystand pagando 7 crediti. E quindi potevi installare tranquillo. Poi faccio pescare due carte. Non lo so, ubriachi. Cioè, è veramente forse la carta peggiore. Perché le altre potevo capire che. No, ma poi è bello che ne puoi mettere solo una. Solo una! Cioè, poi il fatto che ragazzi, ti dica ne puoi mettere fatto... solo una è perché ci deve essere qualche combo. Cioè, secondo no, me. No, no, no, no. Ho visto che c'è qualche combo strana. E hanno detto ok, questa combo con le carte future non. Cioè questa carta con le carte future farà una combo della Madonna. Non possiamo metterne tre. Erano semplicemente ubriachi. Mi hanno detto, ragazzi, abbiamo fatto la carta più forte del mondo. Non possiamo metterne più di tre nel mazzo. Dobbiamo. Altrimenti poi le bane. Mettiamone una, mazzo. Vai, ragazzi. Pacche sulla spalla. Così non è l'hanno possibile. L'hanno già limitata, vuol dire che l'hanno provata, cioè vuol dire che l'hanno testata sulle carte che stanno arrivando. Sì, ovviamente stavano sbagliando il gioco. Non so, stavano giocando a campo minato mentre provavano questa carta. Non è possibile. No, secondo me c'è qualcosa che non sappiamo. Adesso indagherò con il buon vecchio Costa che fa le traduzioni e quindi conosce già tutto. Ah, tutto... due crediti e giochiamo in side job, eh? Esatto, il gioco esatto, bravo. Spendo due crediti, anzi due birre e via con l'inside job. E magari recuperiamo qualche informazione al server remoto. Non lo so, cioè, penso che sia la carta che... Da quando sono... Ogni pacchetto ha tormentato la sua è carta. È troppo brutta per non raccontarci che c'è qualcosa in arrivo di grosso che per cui l'hanno dovuta addirittura limitare a uno. Secondo me stiamo diventando cospirazionisti, esatto, proprio, esatto, il passo bravo, successivo bravo. È quello, bravo. Indossare un bel elmetto fatto con l'alluminio. Esatto, esattamente. Cioè questa è la carta che mi rende cospirazionista, non c'è possibilità che non mi ci renda. Bene, allora, visto che abbiamo registrato questa cosa, utilizzeremo poi col notaio. Esatto, col notaio andremo a vedere chi aveva ragione di questa discussione. Va bene, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo messo una simpatica ora e qualche minuto, un'ora e cinque, un'ora e dieci. E mi sembra che comunque abbiamo dato tutto il tempo necessario a tutte le carte di poter essere commentate. Siate pazienti, ve l'ascolterete magari non in una corsettina ma magari in due, non in un giro di metropolitana ma magari in due, però insomma andava fatto. Sì, erano abbastanza importanti comunque queste carte, eh. Poche, sì, sì, comunque un pochettino brutte sorprese. Spostano, un pochettino spostano. Dai. Soprattutto Eden Shard sposta molto. Eden Shard si sposta al mio cervello. Bene, bene. Ma boh, oh Luca. Se non c'è nient'altro che vuoi aggiungere, io qui sono già nella fase saluti, perché poi c'ho sempre la paura di fare i podcast troppo lunghi. Ah no, beh certo, beh, salutiamo la mamma che ci ha fatto, esatto, così funky e così via. No, è stato un piacere per me partecipare, spero di riuscire a partecipare ancora, sì, molto volentieri. Se avete apprezzato, alla fine ci siamo fatti qualche risata. Aspetta, mamma mia, mi è già rimasto in testa quella carta. Sì. Esatto, è quella la funzione di Eden Shard. Rimanerti allora, in testa. Sì, io mi immagino. Aspetta, allora, prima dei saluti, io mi immagino. Ricerca e sviluppo di Fantasy Flight, divisione Netrunner, e un tizio della ricerca e sviluppo entra e fa: oh ragazzi, mi è venuta in mente un'idea fighissima. Flippiamo la testa di tutti i giocatori di Netrunner, facciamo una carta che la trattiamo come se fosse super sgrava, invece fa un effetto che è una merda pazzesca, e vediamo che effetto fa con tutta la community di Netrunner. Genio F4 e parte, capito? Cioè così ci hanno preso per il culo, guarda. Sì, però... sì, secondo me, cioè, allora, sono due le tesi: o sta arrivando qualcosa di grosso, oppure la tesi ancora più complottista del creativo di Fantasy Flight, che ci sta prendendo in giro e ride mentre noi parliamo di Eden Shard. Ride di noi, sì, sì, ride sotto i baffi, cioè, ce lo vedo proprio alle convention. Eden Shard che se la ride. Bene, allora, ragazzi, dopo questo l'abbiamo dette tutte. Bella Luca, grazie mille del tuo tempo e ci risentiamo presto. Un saluto a tutti e alla Ciao, prossima. ciao ciao. Ciao, ciao. I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.